scendere, vi sto dicendo, in fretta, adesso. Ma quella struttura c'ha, molto peso c'ha. No, no, no, no, assolutamente. Però è fatta a Mantovano, praticamente sono due capriate unite, a parte il fatto che il mio palazzo è antisismico, ok? Perché quando supera una certa testa deve essere antisismico, anche quella 12 piani. È tutto in cemento armato, capito? Io già Fabrizio ho già apposto, ma per bucare dove ho messo le zanche io per le antenne, per le direttive. Sono le trafile a 18 passanti tutto col chimico, perché se no potevamo bucare il martelletto a bucare, attrappano martelletto. Praticamente è gettato, sono i cosi di cemento armato e pilastri, cemento armato, e poi è gettato tutto a cemento fatto a gabbie, non ce n'è di tavelle lì, tutto a cemento armato a gabbie, e poi è rivestito tutto sopra con quei fogli di impermeabilizzante in alluminio. Io ho un piano di massa sopra, è tutto in alluminio il tetto mio. Va bene, dunque è fatto bene, dai, sono pensato, di padrone, sì, comunque pagano tutto, perché se ricordo che se la sorella vanno a mettere un quartierone pubblicitario devono dare 500 euro al mese, e via tutto, no, assolutamente. Il cantatore pubblicitario prendeva, era un assago, ma certo non so se era 8 metri, o 5. Ma su te? A fianco alla facciata. Poi? Dove? Lì abitavo di fronte a Ferraris, c'era le mansarde, c'aveva. Sì, lì c'è, dove c'è Ferraris, in via del Porto Torrese, all'angolo, tra Corso Trinità e via del Porto, lì c'è il traliccio, l'hanno messo. E faceva più la casa che c'era tutta venduta. Ma c'è il traliccio lì, lì c'è il traliccio da Teco. Aspetta, non le palazze di Ferraris, di fronte. Ah, dove c'era Giompina prima. Bravo, sono portati giù, tra quelli che stavano facendo rettare di mobili antichi. Esatto, bella zona anche quella, un bel palazzo anche quello. C'è un terrazzo allucinante. Sì, quelli che avevano ristrutturato non li hanno mai abitati, quello stabile che c'è lì, dove c'è Samara. Da tutto giustato, fatto bello, ma troppo cari gli appartamenti. Un bel costa, Tony. Diceva che mio cognato ce lo voleva comprare fuochi d'uno e ne voleva 250.000 euro soltanto, e non so se è tipo un po' locale, può una fare il genere. Sì, che c'è un palazzo vicino, vabbè, è stato ristrutturato, ok, ma è vecchio sempre. Allora, tutto quel palazzo, prima, quando era abbandonato, mio cognato per difendere poteva comprarlo. E gli voleva dare 800.000 euro e lui ha detto no, le voleva 1 miliardo, per 200.000 ci sono sfocciato. Mio cognato aveva intenzione di fare anche il supermercato sotto, perché sotto c'era allora, tempo fa, un negozio di ferramenta enorme quel palazzo. Io mi ricordo c'era un portatore grande all'inizio, mi pare c'era un'officina. Poi c'era anche Gioffina, è un bel cortile, hanno fatto lo scavo fin giù, lì che è città, e poi ci ho abbandonato. Bello però. Che avrebbero voluto abbassare i prezzi, il caffè è bello però. Hai visto quante porte c'ha? Alla parte da me pure c'è la tua. Ma peccato qua. Non ti compri il mio, Tony, ti lascio le antenne e qualche radio. Ma tu pensi che io vado anche con l'età avanzata e più divento manco? Non lo so, ti sto facendo una domanda. Ah, la cosa sì, la vecchietta a casa piccolina, piccina, e ci sta però caldo. Vabbè, è una settimana. Questa non è molto grande. Forse una stanza in più di te c'ho già. Io ho due camere da letto, una sala, la cucina, doppio servizio. Ah, a me va bene. Bella grande la mia. Quelli 98 metri quadri. Come fai a essere 98 metri quadri se c'è due stanze da letto? 95 è questa, ne ha tre. Con i terrazzi. Ah, questa con i terrazzi è 115. Questa c'ha tre stanze da letto, vabbè, una è la mia, ragione per cui io abitavo qua, caro Torino, al 9 piano, ok, e avevo 8 metri di cavo, però avevo due stanze da letto, le radio ce l'avevo in un angolo, una resega proprio ricavata dal corridoio, dove qua c'è lo stesso, la resega però c'è l'armadio a muro, che fa la scarpiera, la dispensa e tutto. Io me li avevo messi lì, fatto bene, un bel piano, fatto fare lo stesso che faniamo, l'aveva fatto Andrea, capito, le avevo messi lì. Però ero sempre in mezzo alle balle, non potevo fumare, non potevo farvi nessuno, perché ero sempre in corridoio, in mezzo alle balle. Quando sono morti i miei suoceri, anzi sono diventati anziani i miei suoceri, che mio cognato se li ha portati alla casa di riposo, ho iniziato a fare i conti con mia moglie, il cognato ha detto vendiamo o non vendiamo, mi dico cosa dice, non so, vabbè, allora facciamo una cosa, io me ne vado in via Pascoli, decidete voi, la casa da ristrutturare, ristrutturatela, quando è ristrutturata ci pensiamo, come ho finito di ristrutturarla, aiuto, via. A me mi sarebbe interessato solo avere una camera più qua, perché mi avrei fatto soltanto la camera per gli armadietti che c'ho fuori, c'è l'attrezzatura, e avrei eliminato gli armadietti e questi mobili che ho costruito io. Per quello io ho preso questa, capite? Ho venduto quella che avevo, ho dato la quota a mio cognato e ho comprato la quota di mia moglie. Capite, mi è venuta la metà, era valutata a 140 e mi è venuta a 70. Però c'ho la mia stanza che mi serviva, è quello che io volevo, capite? E basta così. Adesso se riusciamo, però mia moglie è tantenna, anche perché era della mamma a casa, qui e là, prima voleva vendere, adesso si è ritirata, l'altro giorno mi ha detto ma cosa dici? Torna qua così. Dimmi, vendi o non vendi? Capite? Perché vogliamo vendere e trasferirci direttamente in campagna. Però siamo sempre sul però. Ecco, io mi sono comprato un altro attrezzo qua. E non so per cazzo mai, però sviricchio, c'ha già due pietre. E però pesante, cavolo. È un casino, non potevo comprare più niente. Non so bene la roba. Il motore? Ehi, il motore con le cose per... Puoi dire delle... Mi consigli, va bene. Tony, non sai quanto vuole Vittorio? Così a occhio, siamo trovati, a occhio, ristrutturata però, rifatta nuovo, quella grande che c'è dietro di te. Ristrutturata, quella proprio da via mia, da dove sei tu, no, che c'è la finestra, quella che ci vede bella, ho detto bellissima questa villa, quella lì, pure 320.000 euro. E non è troppo. Fatto che avesse anche avuto l'ha letto lui e la moglie. Ha detto, oh, ma orientativamente, molto orientativamente però, Vittorio, molto orientativamente. Guarda, quella casa, se tu me la metti a posto poi il resto, non c'è problema. Ti do 220.000 euro e chiudiamo l'affare. Ci stai? Ma detto, ne parlo con Maria, si chiama la moglie. Sì, Maria si chiama la compagna. Dice, ne parlo con Maria, e parlane con Maria, fammi sapere. Quando me lo dici, io vengo con la mia famiglia, diamo lo sguardo, diamo la controllata, andiamo in banca e facciamo l'atto, non c'è problema. Poi il resto, non la devi dare già pronta ad abitare, poi se ci sono modifiche da fare, già me le faccio io. Mi vede ancora una risposta, tra l'altro ve lo stavo cercando, capito? Perché gli ho proposto quella cosa che ho detto a te, no? Gli ho detto, si può verificare, ecco la verifica. Quando hai verificato, lì Tony cosa facciamo? Mettiamo un'antenna solo col commutatore d'antenna e parliamo a sensi unici alternati, un giorno parli tu, un giorno parlo io. Io è tra poco e nulla qua, per me preparato anche voi. Con pezzi di filo ti sentirò stesso, vedi qua. Io come ho sentito che col vecchio stava parlando, che ci vogliono un 30-40.000 euro soltanto per mettere la porta. No, è niente, per come la casa. Lo sai quanti metri quadri è quella casa, sì? Lo so, un bel, tu pensa che ogni camera ha un bagno, quindi volevo fare anche un B&B, volevano fare loro. Lo so, ma l'ha detto, infatti è quello che loro hanno... stanno pensando, capito? Però c'è quel però della proposta che gli ho fatto io, che per lui è molto appetibile, perché lui si è rotto le palle di stare lì, capito? Non lo fa vedere, ma si è rotto le palle, perché dice che si sente isolato, quindi vorrebbe tornare in città, e io gli ho fatto la proposta. Io ti do quella mia, dove abito io, e più ti do 100.000 euro, uno sopra l'altra. ha detto, ne parlo con Maria, parlami con Maria, non c'è problema, la mia è pronta a abitare, non devi fare niente, quella, ci mettiamo d'accordo, metà e metà, oppure mi accorgo tutte le spese io del restauro, e facciamo la fare. Ha detto, parlava con Maria, va bene, fammi sapere. Sì, comunque è bella quella casa, dentro non sembra neanche, veramente bella, anche i muri sono buoni. E io ci ho pistretto qualche volta, questo fa. Fate lavoretto, l'ho fatto, sul terrazzo, che c'è sopra di me. Ma bella grandezza comunque, sì. Perché comprendi anche dove c'è la scalinata, lì hanno chiuso con dei pannelli, ma è molto grande per casa, Grazie. Sì, adesso mi faceva avere la planimetria. L'ho vista, intravista diciamo, però non è mai molto bella. Perché lì praticamente è nata come bifamiliare, capito? Per quelle così grandi, infatti ci sono due entrate, uno da dietro a te e l'altro da avanti, capito? Avanti, già avanti. Continuate che sto mandando le buona notte. Sì, ma non vorrei sbagliare, se non ricordo male, là. Quanto sono? Sui 600 metri quadri? 600? Sì. Allora, lui mi ha detto 450, però non ha contato tutta la circonferenza del giardino che c'è dalla parte tua e dietro. Sì, perché ci sono le verande, sono grandissime, sotto e dietro pure, sono enormi. Allora, la veranda quella grande è 75 metri quadri, mi ha detto. Poi c'è l'altra che è ancora più grande. Sì, dove ho tagliato il coso, io ho tagliato un cazzo di pianta che toglie le spine, che fa i miei fiori, ma cazzo non finisce più, cazzo. Quanto ci ha messo a tagliarla, ma dove fatto? Esatto, e quella è una zona che piace sia a me, a mia moglie e a mia figlia, è una zona, quella zona lì, capite, sono anche amico. Mi piace perché non è lontano da Sassari, sei un po' in periferia, mentre Monte Oro è molto più isolato. A me piace o non piace, ai ragazzi piace, arrangetevi, però a me non è che piace molto. Infatti io col mio progetto sono fermo perché non... ci sto pensando prima di fare qualche errore, capito? Invece lì mi piace veramente, come zona, come tutto, mi piace, molto bella. Lì so già quello che devo fare, non pongo antenne nuda, pongo un traliccio e un giardino, e salto la mano, va a 40 metri, e buh. Senti, poi vuoi affogare la palina pure, ormai anche elicottero ci chiudi. No, sai che mi hanno detto, sto superando il limite io, infatti volevo salirla di 8 metri, mettere 2, 4, 6, 8, no, 3 elementi, 2, 4, 6, 8, 4 elementi da 2, perché ce li ho, sono quelli che non abbiamo tirato su con la direttiva. E siccome nel mio palazzo abita un maresciallo della Guardia di Finanza, diciamo, molto amici, un ragazzo, è un po' più grande di mia figlia, è già maresciallo della Guardia di Finanza, poi c'è da 34-35 anni, un anno o due anni più mia figlia c'è. E mi ha detto, sai che si vede la tua antenna adesso dalla strada? Ho detto sì, l'ho tirata su di 6 metri, ma ha detto te, attento, non te la lascio molto, perché altrimenti ti costringono a mettere la lucetta, perché la notte può essere pericolosa per gli elicotteri, perché il palazzo ha già una certa altezza, in più l'antenna, la punta della tua antenna supera la quota del palazzo e quindi mi mette la luce. Ho detto cazzo, ma allora la società uscita. Io non so come sono più vicino dalla luce che ho. Ma poi il fattore anche poi quando c'è Fluvia, perché calcino la ciaballa. No, è un sistema, come stavo dicendo, un vigile urbano, perché loro hanno il traliccio che hanno in via Carlo Felice. Capito? È un sistema a LED particolare, non so che cosa, che praticamente non si brucia quasi mai, diciamo. E si... Sì, praticamente accende quando fa buio, capito, in automatico, e si spegne da solo la mattina quando fa luce. E noi c'è un interruttore crepuscolare. Esatto. Un impianto ci abbiamo noi qua in giardino, crepuscolare. Sì, crepuscolare, per esempio, anche noi nelle scuole. Ebbene, faccio l'esercizio, le conosco queste cose qua. Esatto. ed è una lampadina cappucciata in plastica che praticamente si accende da solo, quindi l'impianto lo metti sotto, no? E non è difficile, ma è. Poi c'è un sistema per tirarla su, non lo so, se c'è un cavettino d'acciaio dove scorre questa sino in punta, se si fulmina molli il cavallotto e scende giù da sola, capito? E tutto a vedere comunque, se non crea problemi non sempre, perché in punta tutta la padina con questo cavo d'acciaio eccetera. Io che un crepuscolare nuovo nuovo ce l'ho anche qua, è procurato. Non l'ho fatto cambiare, invece non c'era niente, lo sostituto io, nuovo di secca. Vabbè, secca, fissa, qualche giorno la posso anche portare. Ma fantastico, c'è l'entrata all'uscita delle lampade pure. No, io lascio stare così, adesso non mi frega niente. Poi quest'estate vediamo, primavera insomma, che faccio una manutenzione, magari ne aggiungo altri 2 metri, la porto a 8 metri, la porto a 8 metri, non dicono da nessuno, e ne aggiungo altre due fasce di tiranti sotto, la lascio stare così. Ma da 2 metri a 6 metri, assieme a 7 metri già è, quindi andrebbe a più di 8, a quasi 7 metri, ma non c'è la differenza della ricezione che ho avuto, tu arrivavi intorno ai 9-10, un poco più 9-10, sei quasi 9 più 20, capito? Sorso che prima arrivavo 8, mi sembra che arrivo 9, perché è molto più aperta l'antenna, tutti avete aumentato, tutti. Quindi sollevano anche la mia, dovrei essere migliore pure per ricezione e trasmissione. Certo che guadagni, certo, elimini magari qualche ostacolo, che c'è qualcosa. Io già la superavo la collinetta di Scala di Ciocca, adesso proprio la supera di netto, tant'è vero che Oristano mi arriva molto più forte, prima mi arrivava 4-5, adesso mi arriva 7-8. E io ho il tetto qua a fianco, che è un po' più, diciamo, la tenne c'è anche la punta esce, non è tutta che esce fuori da quel tetto, capito? Se ne vado altri 2-3 metri sono a posto. Ma infatti io qua ti ho detto a te, il lavoro che dovevamo fare noi era quello, poi arrivi dello Covid e si è bloccato tutto, se no quel lavoro è da fare, capito? Scenderla, rimettere quel radiale, aggiungere altre 2-3 metri di tubo, anche lì dov'è, aggiungere altre 2-3 metri di tubo e tirare su. Ma c'è tutto, io mi auguro che sto stare un po' felice, e lo sarò all'estate, non so che fare. Ma stanno dicendo che c'è un altro virus qua, che è molto, ma più veloce del coronavirus, praticamente questo qua si trasmette più velocemente, capito? È più un bastardo questo virus, un altro uomo ce n'è. Lo dice, siamo a posto. Per me, dimmi che voi, dice sgarrappato qualche arma patriottica in aria, ma... Senza un po' di dubbio già c'è il business, adesso hai visto il casino che sta succedendo per i vaccini, come è successo per le mascherine, adesso succede per i vaccini, la stessa cosa, capito? Sono le aziende che forniscono a un prezzo di 0,40 centesimi e c'è quello che te la vende a 1 euro, capito? Ma io ho sentito più troppo dramma in TV e dice, ma come può essere che i vaccini arrivano e non ci sono le siringhe fino a aprile dell'altro anno? C'era un dibattito, poi ho capito che ora mi sono rotto le palle. È lì il business, no? Dice, noi facciamo i vaccini, abbiamo i vaccini pronti, perfetto, allora aspettiamo prima di dare i vaccini, perché cazzo dobbiamo guadagnarci con le siringhe, no? Poi ci hanno fatto le mascherine, così hanno fatto le mascherine, stessa cosa. Gianni, finito di mandare i baci? Ah beh, ci pare che sei dormito Gianni. Sì, ma ancora preato, scusa. Si era messo il pigiamone prima. Hai tu la mandando i saluti della buonanotte? Sì. No, che sta, mi è successa una cosa, mi si è staccata la luce. Si è staccata la luce? Sì, dai, ho fatto una presa mettendo il caricabatterie e mi si è staccato il contattore. E cos'è? È saltato giusto? Si è staccato, si è messa la spina, non è entrata bene, invece ha fatto qualche contatto e Perfetto. Se lo filo non entra bene, non si sta col salvavita. A meno che si sia staccato qualche filo all'interno della presa e andato a toccare o la terra oppure la base, o viceversa, neutro, e quindi lo si è staccato il contattore. Vabbè, adesso ho attaccato il contattore, ho attaccato la spina, funziona tutto, e vedi uscire. Cioè, cosa hai combinato tutto? Al buio, attaccando la spina perché per carica batterie. Ho staccato, vedo la spina, quella dove c'è una ciabatta e come spiegato c'è una ciabatta e ho staccato la spina della ciabatta, è rimasta a penduli tra entrare e non entrare, capito? Queste cose si fanno alla luce, avanti qua, va l'audio, Anna. E di già te, ma pure tu? Ma mai salto a toccare il contattore, sono ballato, anche se mi devo alzare di sì domani. Vabbè, a me è un casino, se manca la luce, vabbè, io risolciava, per supposto faccio la fa emergenza, risolcendo tutto, e sono illuminato. Però giustamente io dovrei uscire fuori, passare dall'altra porta del cortiere, e quando c'è il casino, cazzo di po'. Perché il contattore generale è pulito? Ma quando c'era ce l'ho addirittura tutta la veranda di abitazione Giuseppe, io devo fare tutto il fondo di campo di corso di veranda, portate la pila, tutto buio, eccetera. Tu usufruisci della corrente nuova? Cappa. Io sono qua. Che si approfitta. Hai capito Claudio? Ehi, capito, tio, sono andato bene. Io prendiamo una sigaretta, c'è la finestra aperta, abbiamo un caldo, non ci buttiamo, cazzo. Hai visto prodotto l'acqua qua vicino a me, quindi non c'è la bottiglietta. Quindi, fai di tutto, non dovete la mettere qua, perché già fa di pietra come si deve. Ah, certo che sì. Non so, io quello dove io gli ho detto, poi. Adesso vediamo cosa dice. Quella zona mi piace tantissimo, anche perché c'è la campagna lì, lo stesso si gira lì, prima anzi, prima, c'è la campagna il fratello di mia suocera, siamo anche vicini. Poi, vabbè, c'è altra gente anche che abita lì che conosco. Ma guarda che Maria, ma proprio detto, se vuole prendere via tutto, se devo andare via qua, dalle palle piene, fuori dalle città. Poi guarda la fortuna che ha, dove c'è in realtà il muflone, adesso lo sai, il B&B, la terrazza è di loro, è della zia di zia Maria, se non che è morta e gliela ha lasciata in eredità e ce l'ha fatto un B&B. Io lo so, sì, è stato bene. Li conosco, li conosco. Vittorio lo conosco, anche se lo bruciano, quindi non c'è problema. L'ho detto che era il genero del mio carissimo amico, la prima moglie là. E niente. Sì, ma infatti l'appetibilità della cosa è quando io gli ho fatto la proposta, capito? Perché ha detto l'altro, l'avevo letto, no? Siccome un giorno parlavo con lui, mi aveva letto che veniva le balle piene stare qua, poi devo tornare in città, ho detto basta comprato, sì, un'altra, capito? Quindi io gliel'ho buttata lì, capito? E lui c'è questa appetibilità da parte sia sua che di questa sia Maria. Quindi, perché la casa lui la conosce, la mia, ci è venuto un sacco di volte qua quando abitavano i miei soci, però sempre con lui, perché lui aveva, l'ho detto, la concessionaria delle macchine in via Sproni, dove i miei soci avevano il negozio, capito? Quindi si conosceva e molte volte veniva qua. Perciò lo sa, la conosce, infatti mi ha detto, ma quella di Sia Maria Luisa, sì, quella lì è la mia adesso. Mi ha detto, molto, molto, molto appetibile la cosa, allora fammi sapere, io ti do quella, e la differenza, 100.000 euro uno sopra l'altro. Non c'è bisogno neanche che facciamo niente, andiamo direttamente alla notaio a fare l'atto. Sì, ma la padrona è tutta lì che decide lì, è lì il capoccia, capito? Ha messo le cose che mi ha detto, è da lì, qualsiasi cosa lo dica a me, la padrona sono io, così. Qua ci sono 13 ettari di terreno, non è mica la sciocchezza, mi fa detto. Ma a me non è fottuto, tutto a cimento la forza, diciamo l'organcio struzio, forse tutto a cimento, dall'organcello ho visto tutto a cimento, perché se me ne fotte tu, io non devo trattare niente, a me me piace quel posto proprio perché è un paradiso, capite? Piscina, tutto, è un paradiso, mi piace troppo, capite? E siccome ti ripeto, lui, ma anche lei vogliono tornare in città, perché lo so, per certo, c'è questa appetibilità. Adesso vediamo se va in porto. Ma io te l'ho il vero cuore, che io quando ho messo questa strada fino a Cancello, se la potevano asfaltare e fare qualche cosa, no, la strada a campagna va bene così. Che oggi ci sono stati buchi di base, mi passano anche la carità, poi. Avanti Gianni. Sì, a me la riempiti quei buchi. Ma va rifatta già quella strada, va passato il greve e va rifatta tutta, dal cancello sino a dove gira intorno a dove abita Torino. Poi vorrei che si arrangiano, ma tutta sei a me. Che poi guarda, sono anche imbecilli, perché ha chiamato il suo cazzo di camioncino con questa ghiaia e con la pala schiacciava sbagliato. Io avrei passato direttamente a raschiare tutto fino a zero, perché tanto questi giorni, pochi giorni di qualche pioggia che ha fatto, si sta quasi riformando le buche, ma non so se i buchi mirano io. E fa lo slow, è stato di pigli sempre. Se invece le porta a zero, vedere non si forma più le buche, invece no, oppure la spazi, invece no. Simone c'è per la ghiaia, poi cammina, la ghiaia se ne va a parte all'alfa, beh cazzo, una dunetta cazzo che era appunto da parte a parte alfa, è entrata a sinistra. Quella è tutta la ghiaia che non ha sopportato, è un casino. Ma la bitumazione sai quanto costa metterlo, non hai idea tu. Comunque da lì, dal cancello, fino a dove abiti tu, proprio girando intorno, arrivare all'ingresso della villa, quello va tutto riasfaltato, tutto. O lo fai tutto a cemento armato, con tutta la rete, oppure le passi il greve, metti tutto a livello bene e poi asfalti col catrame. Allora viene molto bello. Metti l'illuminazione dal cancello, tutti i paletti di illuminazione, tutto lungo la strada, distanziati alla distanza che vogliono, perché uno non sa di tenere un caro brutto, capito? E viene un bellissimo ingresso. Solo che a me mi ha detto Vittorio che non ne vogliono spendere i soldi. Lo so, ma c'era già l'illuminazione, se tu vedi quasi a metà, per girare per la casa su Giuseppe, la che vogliamo prendere praticamente, insomma con la aiuola lì ci sono i fari. Bene, bici proprio non funziona più, io volevo ripristinare l'impianto, ho provato col testo, i carri sono ancora buoni, e gli ho detto, ma io con 1000 esposizioni ho messo tutto io a posto, al momento, e anche di proprio nel nuovo, tutta, non devo finire, ha ragione, capito? E vabbè, comunque. Ti dico questo, quindi se lo fai anche a cemento forse risparmi più del bitume, perché il bitume non so che costa caro. Che se lo concluso a metterlo? Minchia, ma un bel, no? Un bel di soldi costa, ma non l'avevo detto il giorno tra l'officina autorità, c'era un impianto di bitumazione, costa un bel, no? Un bel. Poi vabbè, c'è Piero Angius qua che c'ha... e c'è la parete, ogni tanto mi fermo a parlare con Piero. Bene, no. A cemento chiami la calcestruzzo, quanti metri cubici ne vogliono? Prepari tutto, metti tutto in piano, fai tutte le reti elettrosaldate, con tutto il muretto di appoggio, ok? Con il passaggio per girare le macchine, no? Tipo marciapiedi, fai un bel lavoro e viene un bellissimo ingresso. Ma mi ha detto che non va, non, ma manca una lira, mi ha detto Vittorio, spende. Lo so, io penso con 2 metri, sono le più grandi, sono 9 metri cubi, con 19 metri cubi, dai tutto anche il piazzale. Sì, ma fai che ce ne vogliamo 3, no, non è un problema. Non è un problema, cosa ci vuole? 2000 euro a bettomiera, 2, 4, ma 2000 euro, sto dicendo una fessina. Fai ci vogliono 1000 euro a bettomiera, con 3000 euro fai tutto lì, capito? Adesso è un bel lavoro. Se muovi 4 gradi di muri a tirare i vitri, a fare bene il lavoro, esce una cannonata, rotto il petto, ma ha detto a me non spendo, manco una lira, non spendo, perché lui, cazzo sembra che stia pagando lui, se lo mette a testa a terra non lascia neanche un centesimo già. Prima di questa chiesa. Ah, lui non c'ha pedire il culo, già lo conosce Tonino, lo già, che è un pellegrino. E la compagna c'è solo non lui. Dopo c'è il fame, è mantenuto. Ma lei cosa fa? Cos'è? Non può essere? Lavora in banca. Che chiama? Poi, con quello che ha ottenuto, a parte quando è morto signor Renzo, anche il Solvirà, che abitava dove abito io in questo momento qua a me. Poi è morta pure la zia, tutto il suo dell'attico allevato, che si è fatto un BB. E per fortuna piove che non si fa niente. No, sto veniamo, grazie a Dio lì ne ho un pezzo. E lui si è comprato la macchina, lui, non può funzionare. Lui lavorava con i bigliardini quando sono capitare qua io. Quando mi ha dato la sorte a pigliare poi i soldini, il bigliardino, eccetera. E aveva la macchina della ditta, sono venuti qua tre signori in macchinone, dei vestiti. Aiù, l'hai inviato la macchina e la mattina fattura l'ha mandato, la prima di vista. Sì, ma faceva 50 a lui e 100 a me, 100 a lui e 150 a me. Metti mamma lo vai con i sci. Ti sto dicendo che se lo bruciano con solo le dita, lascia perdere, lascia, era concessionario Lancia. Lancia autobianchi per tutta la Sardegna, c'aveva l'otto salone bellissimo, dove c'è adesso Amplifon, in via Sproni, capite? Lì, proprio lì. E ti sto dicendo che non te ne racconto dei casini che ha fatto, non te ne racconto, non te ne posso raccontare, i casini che ha fatto è una cosa allucinante. Allucinante, che l'hanno cercato anche dal continente per ammazzarlo. Lascia lì. E vabbè, comunque. È così. Già, quando si ereditano però le cose, bisogna anche capire se hai la possibilità di mandarle avanti, oppure se le tieni come bene o se le vendi. Perché grazie a Dio i miei suoi ce ne hanno lasciato un bel, ma un bel. Tipo la casa di San Francesco, questa, quella di Alghero, quell'altra di Itri, in via Sassari, quella di Caparredo, la campagna, ne hanno lasciato un bel. Però lì chiaramente devi decidere cosa fai. Mia moglie, il mio cognato ha deciso di vendere, perché se tu ti accaparri tutte queste cose, cazzo, o le mantieni, oppure ti scende degeno a tassi. E quindi hanno voluto vendere, mio cognato con la vendita ha dato una parte a mia moglie, l'altra parte se l'ha tenuta lui e ha costruito la casa di riposo. E quello è, non è che puoi dire tutti questi beni, no? Comunque già, ma tra... Se ti va a buon fine che te l'ho il vero cuore, tutto l'impianto illuminazione te lo faccio io gratis. Grazie Tony, sei un amico, eh. Se mi fai l'impianto illuminazione ti regalo il DAC, bene va. Già, lo sai la proposta di Tonino qual è? Tu ti sei addormentato? No, io ho sentito. Io sono un bell'ardito. Che ti fa l'impianto illuminazione e tu mi dai il DAC. No, questo l'ha detto adesso, poco fa, hai sentito cosa ha detto? Che vuole fare il cambio, lui mi dà il gas, io le do il dato, ho detto se ti sente Gianni guai. No, non l'ho sentito. Stavi versaggiando forse. Che gli chiama con la proposta. Beh, ogni tanto bisogna. Io te l'ho detto, ti ho risposto, che non esce da qua. Se non esce uscire, la prima proposta l'ha fatta già Gianni. Capito? Ho fatto un fioretto io con Gianni, non hai inteso? Sei addormentato per il rella? No, veramente tu hai detto, ho fatto già una proposta con una persona, ma il nome non me l'hai fatto. Vabbè, non volevo fartelo, ma adesso te l'ho detto. Quindi, se io dovessi decidere di vendere il DAC, il primo a chiamare sarà Gianni, perché è da tantissimo tempo che mi dice che le piace il DAC e che vorrebbe il DAC. Capito? Se dovessi decidere. Per il momento sono ancora sempre nella decisione di non darlo, perché non lo trovo. A cui questo, sto letto, tu l'hai visto in fotografia. Se lo vedi dal vivo mi dice, cazzo, cramaite non blu, è nuovo, è tutto cromato, il pannello davanti è in alluminio cromato, le maniglie sono tutte in acciaio inossidabile, i pomelli sono tutti cromati con questa cromatura che per gli anni che ha sono lucidi, gli interruttori sono tutti originali proprio. Poi c'è i canali che appunto sono digitale, quello che tu vedi acceso sono tutte le scritte che lui ti dice. Cosa c'è inserito? La GC, che è come l'HF, no? Che diminuisce la velocità dello smitter, e te lo segna in verde. Poi cosa c'è? Trasmettitore stand by, perché io lo metto in stand by, una volta l'accendo, quando poi hanno scaldato un po' le valvole di trasmissione, tiro su e vado in transmit, e ti segna transmit che il pulsante è in trasmissione. L'altro di cui accanto è on ID coso, l'NB, il filtro, e ti segna che c'hai il filtro inserito. Ti segna tutto, tutto, tutto, tutto. E vabbè, poi vado da leggere e poi vado a pubblico io. E mi farò viaggiare in America per una conferenza. No, poi c'è uno smitter allucinante, cioè non ho bisogno di occhiali quando parlo con questa radio, veramente. Lì c'è l'MB più 5, i watt sono 25 watt, perché c'è lo strumento, lo tengo sempre nel CWR, però lo posso anche tirare su. La levetta mi segna watt, power segna, e mi dà i watt che sta uscendo la radio, se no mi segna le stazionarie. Ma c'hai lo strumento, hai visto quanto sono grandi? Quegli strumenti sono uguali a quelli della ZG che rendono, precisi. Il primo che mi ha detto che vuole fare la foto non è che facciamo anche, però per te che sì, per me è migliore. Ma bello, ce l'abbiamo in tre in Sardegna. Sono praticamente due collezionisti più io, che sono un semicollezionista, no, a loro livello. Ma già sto prendendo quota di nuovo. Sai cosa stavo pensando invece io qua? Cosa? Questo marachino che io non mi piace, che c'è il presentino digitale eccetera eccetera. È riuscito a vendere però e me ne compro l'altro. Ma il baracchino veicolare? Quello è la stazione fissa di Italia. Quale c'hai tu vintage? Quello che c'ha due svizzera, che tu ha detto già di Giazzurra. Ah, quel c'hai un mobicon da vendere? Sì. Ma è da mettere a posto? Ma non lo so, se per trovo lì non c'ho il microfono, come faccio a provarlo? C'è lo solo spinotto e poi. Come c'è lo spinotto? Microfono mio, ma c'è lo spinotto per attaccare il microfono. Sì, sì, hai 5 punti infatti quello lì. Accede tutto, il frequentimetro, il canale, tutto perfetto. Ma lo devi far provare. Io il microfono a 5 punti ce l'ho. Non ce n'è problema, a 5 punti c'è quello del Puri e c'è quello dell'Inter che ha 5 punti. Uno è rotondo e l'altro è a puntare, quindi dovrebbe andare bene uno o l'altro. Fai provare, mi dici cosa vuoi e te lo prendo io, non ce n'è problema. Io ho già lo spinotto nuovo di zecca 5 punti, è già inserito, manca solo il filo con il microfono. Vabbè, l'importante è che la radio abbia il connettore, si può attaccare un microfono. Certo, se ci ho infilato lo spinotto. Ok, ti ho detto, me lo fai provare, se la radio è almeno funzionante o che non ci siano tanti lavori da fare, mi dici cosa vuoi e te la compro io. Ecco, ho preso il tuo, ce l'avevi già vista qua. Cosa? L'avevi già vista per certa qua. Molto, non me lo ricordo. Io non sono venuto lì, eravamo impegnati a montare l'antenna, poi ci abbiamo fatto quel pranzetto e non è che lo abbiate di così due. Mi ricordo del Galaxy e poi avevamo sempre entra esci a tarare l'antenna, capito? C'è problema Antoni, figurati, se la radio è insomma funzionante o anche se non è funzionante, che non ci siano tante cose da fare, molta spesa per metterla a posto, io me la fai provare, vedo quello che c'è, la do a Gianni Capri, me la faccio mettere a posto a lui, non è un problema. La teniamo qua. Guarda, le ho fatto la foto, acceso, adesso ti mando anche lo smitter trasparente, perché è acceso e non ne ho appena, c'è solo il cavo attaccato lì, che è un perfetto. Dunque. Posso trovare qui, ecco qua, adesso ti mando la foto. Ecco, è stato acceso. Claudio, ecco Claudio, e via contatto? Io, non so, vedo, ma la conosco, se come quella che c'è Gianni già la conosco. Già la conosco, pronto, non devi essere luci blu anche tu, eh? Non per le parole, Gianni non ride, eh? Gianni piacciono blu, no, io no, io le lascio stare così. Ho provato un giorno a metterle al DAC, così appoggiargliele e chiudere. E chiudere lo strumentino a vedere se erano belle, ma è troppo visiva questa luce blu, invece così è bianca ma non è giallina, proprio la sua originale, capito? Vediamo, arrivi dunque ancora oggi, vediamo se c'è qualcosa, riprendi già. Io riprendo, sono andato a farmi l'iniezione notturna. C'è un baffetto solo, come mai? Io te l'ho inviato, c'è un baffetto anziché due, e poi devi aprire tu, diventa la cerizzi, però ecco, due arrivati, adesso ti arrivati. Sì, infatti, perché c'era il telefono in salone. Ma io, e abiti. E questa è come quella che c'hai tu già. Cappa. Ma il bimbo è dai 6 anni, grazie. Sì che sono uguali, mi. Però tutto bianco, non si legge niente, cazzo, boh. Perché l'hai accesa? Spegni, no? Si vede questa luce bianca, queste luci bianche, boh. Ah, sai che tocco un po' di fili finiti, adesso te la faccio senza tutto il spegno. Ai, cazzo. Mi ha fatto buono il gasino, questa qua, la presa, ma come elettricista vai, cazzo, ma come ti puoi fare un pianto come i cristiani, che sei con questa ciabatta sopra il baracchino, cazzo? No, ce la faccio sopra il baracchino, è una parte, certo, devo sistemare, sono già 2 settimane che lo faccio quando sono, diciamo, cioè, domenica, non lavoro, invece non ne posso, c'ho troppo dolore, lo spingisco. Te lo spingisco. Dove è la prigione, vai? Gianni! Cazzo! No, me lo spingisco, cioè. Non ci fa mai la frizione. Adesso te lo mando con le luci spette. Avanti. Che inviato? Avanti. Ah, eccolo qua. E se non manco vedo qualche cosa, no? Come si vede il televisore dove ce lo smette? Come c'è il frequentimetro? Cazzo ci vede? Cos'è la televisione accesa? Cioè? Sta riprendendo la televisione. E allora, dove lo prendo? Ma forse. Io tutto anche dal Galaxy vedo la televisione. Bene, Tony, dove ti macchina in settimana? Anche domani sono senza macchina. Domani è un bel casino, giornata di merda, vabbè, piazza le scene, piazza le 8 e mezzo, portare la macchina alla meccanica. Dovrebbe cambiare una cuffia e un cuscinetto anteriore. Capito? Mi devo portare domani mattina alle 8 e mezza e me la va domani sera in chiusura. Però se sei libero e ti vuoi far vedere, te lo metti in macchina. Cos'è? 2.20, sì? A 2.20? No, 12 volte. 12 volte, perché non è a 2.20? Perché abbiamo fatto la modifica. Abbiamo fatto in culo questa modifica, cazzo. Boh. Ogni volta intendo queste cose, cazzo. Ma ce la fai a 2.20? I trasformatori della 2.20 costano una coglionata. Quando si rompe glielo mettete. Cosa cazzo le fate la modifica a 12 volte che perde il valore? È conosciuto, ma l'ha fatta così con famiglia, perché ci ha bruciato l'avventatore. Ma non si fanno queste stronzate, ma ne stavo parlando con Gianni Capri 2 proprio l'altro giorno, che lui è un professionista in queste cose, non si fanno. Quando una radio a 220 si rompe e si brucia il trasformatore di tensione, si compra, costa una stronzata, e si rimette il trasformatore nuovo e si lascia a 220. Minchia, cazzo. Cioè io baghiccio la radio, devo bonino, ma alimentarlo e va alimentarla in hobby, in questa base, perché queste sono tutte a 220, proprio per non avere problemi di alimentazione. Ai ai ai, comunque mettete le macchine e fammela vedere, no? Che attacco c'ha dietro? Ehi, adesso c'è troppa roba sopra, sei visto? Che attacco c'ha? Devo vederlo. Paolo, allora non è come la mia c'ha un interruttore da 220 a 12 volt dietro. E dovrebbe essere anche questa già. Non è che gli ha fatto nulla lui, dovrebbe essere dalla casa, è così. mio c'ha l'interruttore dietro, sia a 12 volt che a 220, funzionano tutti e due. Non lo so dietro, ma no, c'è un sacco di roba sopra. C'ho un vincitore marino, poi c'ho due alimentatori, qua c'è fatto un casino di roba. Marino, che fai? C'è l'antenna? No, non ne ho. Ma questo lo da parecchi anni, ce l'ho. Ma sapete più l'antenna marina di quelle che si mettono in mare? Ma ci manca anche il microfono. Buonanotte. Ma microfoni per adattare qualsiasi microfono. E c'è pure lo spidofono. È un bel strano sto qua a me. Beh, sono particolari queste marine. È piccolino, non è come l'attacco normale che abbiamo noi. Un po' più piccolo. Perché mi hanno chiamato? Non so, cosa hai detto? No, sto parlando che dietro no, devo togliere un po' di roba per toglierlo fuori. Vabbè, se tu ce ne toglierò adesso, no, se lo rivirare devi toglierla lì, no. Certo che ha ragione Gianni, quella radio è nata con un interruttore dietro, ok? Con l'impianto a 12 volt e con l'impianto a 220. Se tu elimini l'impianto a 220 e lasci solo quello a 12 volt, hanno fatto una grandissima stronzata. Non lo so, devo guardarlo dietro, dai. Allora, quella persona ha detto che praticamente a 220 volt davano problemi perché scaldavano e rovinavano l'apparecchio. Si bruciavano diversi componenti. Infatti lo stanno facendo andare a 12, però se lo metto a 220 va ugualmente. Sì, in effetti sono sì, già, me l'hai ricordato tu, in effetti così. Se è nata a 220 quella radio, con l'impianto doppio, 12-220, perché deve scaldare? Non capisco, vabbè. Non so, io non ho radio così. Le mie DAC a 220-220, non ho nessun interruttore perché non può funzionare, ce ne ha due di trasformatori, fate il conto. Perché addirittura c'è quello a 110 volt esterno, poi gli altri sono tutti 220, cioè hanno l'attacco per i 12 volt, però non hanno nessun interruttore, capito? Sono i cavetti adattati e vanno a 12 volt, però io li preferisco tutti 220. Anche l'Inter che tuo già, che c'era il problema, ronzava, faceva, stronzate, era tutto un sistema di connessione e di cose alternata, non era rumore del trasformatore, perché tutta la sera ce l'avevo acceso, stavo parlando con quello ed è perfetto, assolutamente. Va bene Tony, rimaniamo ancora così, tu toglielo da lì, quando c'hai due minuti dai una pulitina, me lo fai provare, io ti dico se la radio è quello che deve essere o non è quello che deve essere, e ci mettiamo d'accordo. Ok, va bene, poi con calma lo trovo qua domani, vedo di fatto anche la foto. Esatto, se il problema di microfono non ce n'è. Non mi piace, microfoni a 5 ne ho 2, quindi se sono da cambiare la connessione ne compro un altro di microfono, metto il connettore suo e lo faccio andare. L'importante, ti ripeto, che la radio sia funzionante, capito? Poi questa storia della 220 o dei 12 volt, quello già la do a Gianni e me lo faccio mettere in originale, non è un problema. Beh, anzico che è mezzanotte 10, abbiamo fatto compagnia agli ascoltori. Io stacco, che c'è già Peppedu che mi sa che se ne vuole andare nell'altra stanza a dormire. Ogni tanto solleva la testa. Quindi raga, vi saluto, buonanotte, grazie delle due chiacchiere e ci aggiorniamo domani, dai. Va bene, saluto anche tutti gli ascoltori. Buonanotte a tutti e buon inizio settimana. Ciao! Qualcosa in più di due chiacchiere. Ciao Claudio, buonanotte a tutti, dai, che vi ricordare presto domani. Ciao Tony, ci sentiamo, buonanotte, non asciutti di mai. Anche domani lavoro, ok. Ciao Claudio, ciao Gianni. Buon e ti grazie per il consiglio e per il tuo ascolto. Ciao a tutti, buona notte. Ciao, ciao, ciao. Ciao a te. Ciao Peccichè. Ciao Perivella. Cazzo Perivella non si è inteso. Si deve essere dormito. Ora è rimasto la marina a fare sesso, gatto. Perivella. Ok Peccichè. Cazzo di è. Di solito entrava. E noi siamo entrati da giro. Vabbè, dai. Ci aggiorniamo. Poi fammi sapere. Quando ce l'hai pronto me lo dici e ci vediamo un po'. se Gianni si ricorda, domani mi fa la foto di quella dietro, così vedo che quella di Gianni è originale, vedo cosa hanno combinato nella tua. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte.